Scivolando via, oltre l'orizzonte, nel guscio di una noce ti sembrerà, oh, il mare e la sua immensità, miglia di pensieri, poi piano piano seguiranno ancora la bianca scia, oh, che vuoi che sia, un porto troverai. Boschi di betulle, robie bianco spino, tanto impenetrabile sembrerà, oh, la terra e la sua immensità, insegui quella voce che ti chiama, tra i rumori della vita intorno a te, oh, che vuoi che sia, quel suono troverai. Ma che serve vagare ancora? La solitudine rimane una cara amica e la sua compagnia. Forse più tardi ti sveglierai e cercherai di ricordare quell'indirizzo che non trovi più, che non trovi più. Ti puoi riposare, la luce del mattino t'abbaglierà, oh, il sole e la sua immensità, suoni d'auto che da lontano ora ti risvegliano dal torpore, oh, che vuoi che sia, la strada troverai. Camminare a piedi, camminare soli, per sentire vivere intorno a te, oh, il mondo e la sua immensità, pieno di paure da gettar via, da pagare per quelli come te, oh, che vuoi che sia, domani cambierà. Ma che serve vagare